E abbiamo ascoltato Lust for Life di Iggy Pop, che è il brano d'inizio del film Trainspotting e anche il primo brano della colonna sonora. È uno dei pezzi più belli di Iggy Pop e racconta di party con droga, eccessi, che è proprio adatto infatti a accompagnare il film. Il brano è contenuto nel secondo disco di Iggy Pop omonimo, Lust for Life, che ha tanti bravi musicisti che hanno partecipato, fratelli Hunt, Tony Sells, Carlo Alam e Ricky Gardner alle chitarre e David Bowie al piano, che ha contribuito, i musicisti hanno creato le canzoni, i hip hop i testi. Last for Life è stato scritto da Iggy Pop nel suo periodo berlinese insieme a David Bowie, un periodo buissimo, molto buio per lui, in cui ha visto la luce grazie all'amico David Bowie, che insieme a lui ha prodotto in quel periodo il bellissimo Heroes e Low, e mentre Iggy Pop produceva Last for Life e The Idiot, e insomma è stato un bel connubio. Tanto che David Bowie suona il piano, come dicevi, e fa anche dei cori. Dei cori, sì. Di tanto in tanto perfino io ho pronunciato le parole magiche. Mai più, Swanny, basta con questa storia. Dici sul serio? Sì, mai più, ho chiuso con questa merda. Dipende solo da te. Faccio davvero stavolta, voglio uscirne una volta per tutte. L'ho già sentita questa cosa. Il metodo Sick Boy. Ah, con lui ha funzionato, Beh, gli è sempre mancata la fibra morale. Sa un sacco di cose su Sean Connery. Questo non è un sostitutivo. Hai bisogno di un'altra pera? No, non credo, no. Hai davanti una lunga notte. Lo chiamavamo madre superiora per l'età della sua dipendenza. Certo che mi sarei fatto un altro schizzo. Dopotutto mi aspettava del lavoro. Rinunciare alla roba. Fase 1. Preparazione. Per questa cosa ti serve una stanza da cui non puoi uscire. Musica distensiva. Salsa di pomodoro, 10 scatole. Zuppa di funghi, 8 scatole, da consumare fredda. Gelato, vaniglia, una confezione grande. Magnesia, latte di, una bottiglia. Aspirina, colluttorio, vitamine, acqua minerale, aranciata, pornografia. Un materasso, un secchio per l'urina, uno per le feci e uno per il vomito. Un televisore e una boccetta di Valium. Me la sono già procurata da mia madre, che è nel suo modo domestico e socialmente accettabile una drogata anche lei. Ora sono pronto. Mi ci vuole solo un'ultima dose per calmare i dolori, mentre il Valium fa effetto. E abbiamo ascoltato Trainspotting dei Primal Scream, la traccia che porta lo stesso nome del film, e la possiamo ascoltare quando Renton e Sick Boy parlano distesi sul prato, proprio dei film di James Bond. Infatti questo brano contiene al suo interno campionamenti dei film di James Bond, non so se avete notato. E i Primal Scream sono emersi nella seconda metà degli anni Ottanta come una delle band portabandiera dell'acid rock in salsa britannica. Hanno poi sferzato però in un personalissimo ibrido rock e techno e musica dance, cavalcando prima l'era della dark wave e poi approdando nella chemical generation. E io invece volevo dire una cosa: secondo me Trainspotting è uno dei film più belli sulla droga, insieme a Cristiana F e Amore Tossico naturalmente. Poi insomma questi tre film, credo che poi forse anche altri film hanno pensato, altri registi, ma credo che poi dopo aver visto questi tre film si sono frenati nella loro voglia di parlare di droga dal punto di vista cinematografico. E inoltre volevo dire che ci sono tanti riferimenti in questo film a tante passioni di Danny Boyle che sono fondamentalmente legate alla musica. E, per esempio, la scritta Mother Superior nella casa del Pusher si riferisce a una canzone dei Beatles il cui titolo è Happiness is a Warm Gun, una canzone sull'eroina in cui c'è proprio una frase che dice Mother Superior jump the gun. E poi ci sono tantissimi altri riferimenti molto interessanti, ma magari ne parliamo andando avanti con la trasmissione. Non vi sentite orgogliosi di essere scozzesi? È una merda essere scozzesi! Siamo il peggio del peggio, la feccia di questa cazzo di terra, i più disgraziati, miserabili, servili, patetici avanzi che siano mai stati cagati nella civiltà. Ci sono quelli che odiano gli inglesi, io no, sono solo delle mezze seghe. D'altra parte noi siamo stati colonizzati da mezze seghe. Non troviamo neanche una cultura decente da cui farci colonizzare. E abbiamo ascoltato Atomic nella versione degli Sleeper, originariamente una canzone cantata da Blondie, ma Blondie si è rifiutata di dare i diritti e quindi hanno usato la versione degli Sleeper. La musica accompagna proprio il momento in cui Mark vede per la prima volta Diane, ed è proprio tipica di quell'epoca, dei primi anni 90, nei club veniva suonata in continuazione. Volevo dire, a proposito della colonna sonora, che l'ha curata Damon Albarn, che è il cantante dei Blur. Contiene 14 brani ben scelti, risultano lisergici e nervosi, e proprio per che accompagnano bene la regia di Danny Boyle. Da dire nella colonna sonora ufficiale, che è composta da due dischi, di cui il primo sono proprio i pezzi ufficiali del film, e nel secondo disco invece ci sono molti brani che il Danny Boyle non ha potuto inserire nel film, ma al quale si sono ispirati. Pare che sia introvabile questo secondo volume. Ma io l'ho trovato. Sì? Bravo. Someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven. Always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight. They kick a ball and have a fight. And maybe shoot somebody if they lose a boom. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's mine. stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di Trainspotting. Questo era Mile End dello storico gruppo inglese i Pulp. Sì, i Pulp sono una band britannica longevissima, attiva dal 1978, quando il suo frontman Jervis Cocker aveva 15 anni. Ha pubblicato dischi fino al 2001, l'ultimo We Love Life. Poi sono entrati in un periodo di inattività e poi si sono sciolti. E questo film è imperniato tutto sulla droga, no? Anche su una certa, insomma, esaltazione, no? Il film suggerisce l'idea che tra la tossicodipendenza e l'integrazione in una società mercificata non esista una grande differenza. È tratto da un libro di uno scrittore abbastanza famoso che è Irving Welsh, il quale è avvezzo anche lui, diciamo, all'ambiente e ad aver provato su se stesso quasi tutte le droghe, così come dice lui. Una curiosità: il regista Boyle, per far girare le scene di eroina ai suoi attori, che invece non hanno ovviamente questa esperienza nel loro background, gli ha fatto vere e proprie lezioni di comportamento da tossicone. E quindi sì, gli ha fatti proprio frequentare degli ex renomani che gli hanno spiegato come funziona il tutto, e gli ha anche proposto al protagonista del film, Ewan McGregor, è stato proposto di bucarsi e di provare l'eroina in modo tale da entrare di più nel personaggio, ma lui ovviamente si è rifiutato. Oh, questo ci porta all'ospite di questa settimana, che è Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. Sergio, ci sei? Ti fai, Sergio? Buon pomeriggio, si può dire in onda, buon pomeriggio a tutti, come va, come state? Bene, bene, tu? Tutto bene, tutto bene, anche perché appunto l'orario pomeridiano di solito non si confà con la domanda che mi facevate prima, insomma, sul fatto più in là poi durante la giornata, ma scherzo ovviamente. Senti, rispetto a Sentieri Selvaggi, tu, ci eravamo scritti che state seguendo questa 40ª edizione della Ceno d'Oro, e abbiamo in occasione della trasmissione precedente, la Visionari di Cinema, abbiamo avuto modo di sentire Francesco Clerici, che sarà in programmazione proprio oggi con il suo documentario, giusto? Sì, sì, assolutamente, Il gesto delle mani al Movieplex di Mercogliano, che insomma qui il festival la base ad Avellino, ma si sposta su 9 paesi che sono intorno qui alla zona della Ceno, appunto. E questa sera al Movieplex Mercogliano alle 19 il film di Francesco Clerici, che ha vinto il premio Cipresci a Berlino, e poi a seguire Daniele Gaglianone con il suo documentario sul movimento Notav qui. Quindi sì, una bella serata, ingresso gratuito, con entrambi gli autori presenti, sia Daniele che Francesco. Senti Sergio, qual è la tua opinione su Trainspotting? Ma allora, se ne sta parlando molto ultimamente, perché è stato ufficializzato, no, da un po' tutti, dal cast e da Boyle, questo sequel che d'altra parte come romanzo esisteva già da anni. Lo danno al 2016? Lo danno al 2016? Al 2016, quindi è imminente, insomma. Sì. Certo. Porno! Giusto? Mi interessa la cosa, mi interessa perché già il primo era, come dire, sembrava a un certo punto che al protagonista fosse incastrato in una sorta di loop in cui non riusciva a venire fuori, no, da questa esistenza legata unicamente alle dosi le visioni e tutto il resto. Quindi questo sequel, cioè questo ritornare, è come se non ci fosse quella specie di paradiso, o non ci potesse essere quella specie di paradiso che lui in qualche modo sembrava ricercare, paradiso della normalità che sembrava ricercare nel finale. Quindi il sequel mi sembra un po' una condanna, non tanto per noi, poi bisogna vedere, ma per lui. Cioè, io speravo di non vederlo mai più, cioè che si fosse redento. Sì, invece no, il sequel parla proprio di loro che abbandonano le dipendenze, diciamo, legate alle droghe, però si impegnano in un nuovo business che è la pornografia. Quindi rimaniamo sempre legati alle dipendenze. Sì, vediamo un po' Danny Boyle, che è un cineasta discontinuo, non so voi che opinione avete di lui, però sono d'accordo, sono capace, sì, di di vette, ma anche di essere meno efficace delle volte. Quindi sì, la curiosità sicuramente c'è. Ho visto che in rete ce n'è stata. Il giorno del tweet, del fatidico tweet, è diventato un trend topic, come si dice, per cui l'operazione sicuramente può funzionare. Beh, Trainspotting comunque è stato il suo trampolino di lancio, questo è innegabile, sì. Ha segnato anche l'immaginario di quel periodo, la seconda metà degli anni 90. Ma tantissimo, diciamo che veramente ha insegnato a tantissimi giovani cineasti come utilizzare le armi del grip, le armi di una cultura giovanile underground per rinnovare totalmente le forme del cinema. Ovviamente non arrivava da zero Danny Boyle. Mi ricordo l'intuizione molto illuminante del Bergamo Film Meeting di qualche anno fa, che chiudeva la sua retrospettiva sul free cinema inglese, quindi Joseph Luce, Lindsay Anderson, Karen Reitz, proprio con Trainspotting, come a dire, Trainspotting è un po' sembra continuare, riprendere, aggiornare quello che era l'incazzatura dei grandi film del free cinema. Effettivamente l'eredità sembra un po' quella aggiornata appunto ai tempi schizzati della contemporaneità, del videoclip, del punk. In questo è sicuramente un film chiave per capire l'immaginario degli anni 90 e anche il modo di raccontare le storie proprio visivamente dal punto di vista della concezione formale e strutturale, senza ombra di dubbio. E poi Danny Boyle ha avuto la lucidità di non fossilizzarsi sul genere Trainspotting, ma di spaziare dalla fantascienza. Sunshine, che è il suo film preferito dei miei, per esempio, il suo film preferito dei miei, non potrei mai girare quel film, oppure, non era così via, però in tutti i film mantiene intatta questa sua capacità di saper giocare con l'apparato musicale, l'apparato visivo, è un montaggio frenetico, subito riconoscibile, no? Vedete un cineasta che in 2-3 minuti, 3-4 sacchi di montaggio ti rendi conto che sei davanti a un Danny Boyle. Anche in un film come 127 ore, condannato teoricamente ad immobilità, ad immobilismo, lui riesce ad aprire sempre l'inquadratura, ecco. Sì. E poi grazie anche al ruolo fondante di questo film, come dicevo, in un periodo storico, è stata anche la consacrazione internazionale di due artisti, di due attori come Ewan McGregor e Robert Carlyle. Beh, assolutamente, soprattutto il primo, poi è passato da comunque un film che era un film piccolo, indipendente, che veniva fuori da una scena appunto legata alla sottocultura come era Trainspotting, poi Ewan McGregor è finito a fare i Guerre Stellari, insomma, è finito a fare Obi-Wan Kenobi, è finito a fare The Island con Michael Bay, cioè il salto è stato importante. Carlyle invece è rimasto sicuramente più legato al cinema inglese duro e puro, ecco, il cinema inglese più rock and roll, anche se pure lui ha fatto quel cattivo in un James Bond, no? Però ecco, in maniera sicuramente una carriera meno hollywoodiana. McGregor è sicuramente un interprete di razza, veramente un attore molto interessante, che non so, però ultimamente probabilmente deve fare i conti con una nuova generazione di belli e dannati, tra virgolette, insomma, passatemi la formula, che probabilmente potrebbe scalzarlo un po'. Carlyle invece è quel tipo di attore inglese che appunto, di nuovo, la tradizione del free cinema ci ha probabilmente regalato, che mantiene una potenza intatta, ecco, anche, veramente, sì, anche legato al cinema sociale, Winterbottom, Ken Loach, appunto, insomma. Infatti, assolutamente. Mm-hmm. Non ha bisogno, ecco, delle copertine, sicuramente. Lo stesso McGregor ovviamente non è mai stato un divo dal punto di vista più facile del termine, però certo ha anche avuto quell'aspetto lì, ecco. Rivedendo il film, io l'ho visto pochi giorni fa e l'avevo visto solo la prima volta al momento della sua uscita, quindi ne sono passati di anni, quasi 20 anni. Sicuramente resta molto valido soprattutto dal punto di vista estetico e formale, tecnico, poi la storia è molto meno dirompente rispetto a proprio a quella data in cui invece aveva visto la luce e che ha segnato, come dicevo prima, un immaginario. È vero, c'è da dire che succede a molti altri film probabilmente degli anni 90, no? Sì. È stato un periodo in cui questo tipo di film da Angry Young Men, per rimanere nei riferimenti anglofoni, era assolutamente centrato sul presente, su un certo modo di vedere anche appunto le cosiddette generazione X, gli abusi, le incertezze e così via. E questa roba poi complice anche il fatto che veramente come Trainspotting l'hanno sdoganata, è diventata paradossalmente all'acqua di rosa, nel senso che poi anche dal punto di vista delle efferatezze e dell'essere espliciti, no? Il film è in alcuni momenti molto, non lascia nulla all'immaginazione. Anche in questo, paradossalmente, Trainspotting è stato superato dal lavoro di altri cineasti che sono stati, insomma, sono andati giù ancora più pesante su, sì, droga e dissolutezze varie. Ecco, quindi sì, rivisto oggi, paradossalmente, quello che in quegli anni, insomma, io negli anni 90 ero un adolescente, Trainspotting era uno dei poster nella mia cameretta, no? Cioè, in quegli anni ti sembrava veramente il top della trasgressione. Obiettivamente non dico che si tratta di un film all'acqua di rose, però è vero che non ha più quella dirompenza dal punto, sì, di vista e di quanto fa vedere. Soprattutto mostra di più oggi quanto fosse un po' furbetto anche. Ah, ma quello senza ombra di dubbio. Però questo è un problema ritornante con Danny Boyle, sì, cioè lui è un cineasta che, come dire, ha sempre quello che sta facendo e non si lascia mai veramente andare, no? E ovviamente poi porta il risultato a casa, ma insomma è un personaggio molto furbo. Senti Sergio, in chiusura noi chiediamo sempre agli ospiti delle nostre puntate un'indicazione rispetto alle colonne sonore di un film del quale ti piacerebbe parlare e sentire la musica. Ah, quindi un mio film, insomma. Il tuo film e la sua musica soprattutto, insomma. Cavoli, guarda, io questa è una bella domanda. Io sono molto legato in realtà comunque agli artisti che si sentono in Trainspotting, quindi ai hip hop, a Lou Reed eccetera, sì. Però ti prendo un po' in contropiede, insomma, con questa. Sì, infatti, perché ora il bello è che poi prima stavo parlando proprio con Francesco Clerici del Cesso delle Mani di un'eventuale colonna sonora per un tuo film. Vabbè, questo per dire come poi ci incrociamo casualmente. Però mi piacerebbe molto sentire. Ah, l'ho trovato. Da un film che ho trovato clamoroso, che tra l'altro è in sala in questi giorni, è un disastro di ragazza di Judd Apatow, molto più leggero, insomma, di Trainspotting, e c'è una commedia sentimentale con Amy Schumer, di Leder, una canzone che nel film ha una grande importanza, è un classico degli anni 80, Uptown Girl di Billy Joel. Senti qua che cosa ho tirato fuori. bene, allora noi prendiamo nota. Sergio, grande. Io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi, grazie davvero, buona continuazione. Ciao. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. E stiamo ascoltando la colonna sonora di Trainspotting, e questo era, ovviamente l'avete riconosciuta, la famosissima Perfect Day di Lou Reed, un brano famosissimo, come ho già detto, del 72, e con una ballata dolce e parla d'amore, della giornata perfetta che lui ha vissuto con la sua donna, ma in realtà, secondo me, non solo secondo me, ha varie altre sfaccettature, ovvero che la giornata non è poi così perfetta, andare allo zoo e guardare la TV, e quindi c'è una sorta di melanconia sotto al test, diciamo, sotto le righe di questo brano. Secondo te, Ottavio? E invece secondo me no, il pezzo accompagna proprio una delle scene più potenti del film, che è quella in cui Renton va in overdose, e quindi secondo me Danny Boyle l'ha proprio scelta perché You Make Me Forget Myself si riferisce proprio all'idea dell'eroina che ti fa dimenticare te stesso, e Danny Boyle secondo me l'ha scelta un po' per questo, perché è una canzone, un inno proprio all'eroina, alla droga, al senso letterario e fisico dell'essere drogato, insomma questa è una mia visione assolutamente personale. Invece volevo dire che Trainspotting, il titolo del film, significa letteralmente guardare i treni passare, ossia limitarsi ad assistere all'esistenza senza scegliere la vita, e questo titolo ha messo un po' in confusione il pubblico, perché non c'è una scena vera e propria in cui adesso mi fanno distrarre, mi fanno perdere il filo, e non si fa così, dai ragazzi. Stavo dicendo che nel film non c'è una scena vera e propria in cui i protagonisti si fermano a guardare passare i treni, e quindi ha messo molto in confusione il pubblico, perché non si capiva che cosa intendesse Danny Boyle con questo termine, ecco. Cosa che invece è stata chiarissima per tutti i tossici che hanno visto il film, perché Trainspotting sono proprio l'indulgere, no? Nel farsi senza lasciare spazio a niente altro. Oh, il motivo della distrazione era ho fatto vedere ad Ottavia, presa da Google, l'immagine famosa, celebre, di Lou Reed che sul palco durante un concerto si fa una pera. Si inietta eroina, sì sì. Il brutto quando smettevo con la droga è che sapevo che ritornavo dai miei amici in uno stato di lucidità assoluta. Era spaventoso. Mi ricordavano talmente me stesso che quasi non riuscivo a guardarli. Prendete Sick Boy, per esempio. Aveva smesso di farsi nel mio stesso periodo, non perché lo voleva, badate, ma solo per irritarmi, solo per dimostrarmi quanto gli era facile, sminuendo di conseguenza i miei sforzi. Un succo dallo scassacoglioni, no? E mentre io volevo solo starmene per conto mio a compiangermi, lui insisteva a illustrarmi di nuovo la sua unificante teoria della vita. È certo un fenomeno di ogni stadio della vita. Che vuoi dire? Beh, a un certo punto c'è lei, poi lo perdi e se n'è andato per sempre, in ogni stadio della vita. Georgie Best, per esempio, ce l'aveva e l'ha perso. O David Bowie, o Lou Reed. Lou Reed ha fatto cose da solista, niente male. No, non sono male, ma neanche grandiose, no? E in cuor tuo lo sai che anche se ti suonano bene, in effetti sono solo cagate. Poi chi altro? Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren, Elvis Presley. D'accordo, insomma, che cosa cerchi di dimostrare? La sola cosa che cerco di fare, Mark, è darti una mano a capire che il nome della rosa è appena un barlume di un'altrimenti ininterrotta traiettoria discendente. E che mi dici degli intoccabili? Quello neanche lo considero. Nonostante il premio Oscar. Non significa un cazzo di niente. È per simpatia che l'hanno votato. Oh. Così tutti invecchiamo, non ce la facciamo più e questo è quanto. Già. Questa è la tua teoria. Sì. Magnificamente illustrata, cazzo. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on higher purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else.

E abbiamo ascoltato il bellissimo pezzo Born Sleepy degli Underworld, che caratterizza proprio il film di Trainspotting del quale stiamo curando la colonna sonora. Quando sono le 16.05, Tracce di Cinema si avvia verso la chiusura di questa puntata tutta all'insegna dell'antiproibizionismo. Dagli, vi do le coordinate per sottoscrivere alla radio, che ha bisogno di voi e di tutti coloro che l'ascoltano, perché la radio, come dice lo spotino, è di chi se la sente. Quindi sottoscrivete al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosci 56 00185 Roma. Le coordinate per contattarci sono traccedicinema@ondarossa.info, il telefono 06491750. Fede, è tutto. A giovedì prossimo c'è anche la pagina Facebook di Tracce di Cinema, sempre giovedì dalle 15 alle 16. In chiusura ascoltiamo di Iggy Pop, The Passenger. Questo brano sta nel secondo disco della colonna sonora, non è contenuto nel film, ma ce l'ascoltiamo. Stars made.